Io sono davvero emozionata, so che si dice sempre, so che può sembrare una stupidaggine, ma mi batte forte davvero il cuore in questo momento, perché parlare di Loba o Antonella Barina è difficile, nel senso che è una donna talmente poliedrica, multiforme, ha fatto talmente di tutto nel campo della comunicazione, della creatività, dell'arte che secondo me ci vorrebbe come minimo uno stage di 3 giorni. Riuscire a farlo in 40 minuti è davvero un'impresa. Quindi farò del mio meglio, però il materiale, comunque gli scritti, di Loba sono tutti quanti disponibili online ed eventualmente possono essere recuperati. E incluso molte cose sue sono state da me registrate come in forma di audio sul canale della Scuola delle Donne, lo sapete perché c'è una playlist dedicata a lei. Antonella Barina credo sia nata una settantina di anni fa, esattamente quanti non lo so, ma diciamo qualcosa in più, qualcosa in meno di 70. Ci siamo conosciute, Giusto, giusto. giusti, giusti, ecco, ci siamo conosciute nel 2013 in occasione della fondazione del Cerchio Planetario delle Donne, di cui siamo state entrambe fondatrici. E da allora abbiamo vissuto in simbiosi per quegli strani fatti della vita per cui due anime si ritrovano di vita in vita e si riconoscono, perché tutte le altre, eravamo una sessantina, tutte le altre si sono perse, mentre la relazione fortissima tra me e Loba è rimasta, che oltre all'amore che io sento per lei come mentore e alla gratitudine per aver accettato di editare i miei ultimi 6 libri, c'è anche un continuo scambio in perfetta armonia genetica tra redattrici, tra chi ha il mestiere della redazione, per cui lei ha editato e prefatto libri miei e li ha impaginati, io ho fatto la revisione di testi suoi, ho scritto pezzi di suoi libri e questo scambio è sempre stato assolutamente alla pari, senza conflitti, senza competizione, come dovrebbe essere tra donne che siedono in cerchio, in effetti. Virginia Woolf sarebbe stata molto fiera di noi. Antonella ha un passato di giornalista. Da ricordare, ha anche viaggiato in luoghi bellissimi, luoghi di pietra, luoghi desertici, ed è per questo che una sua cugina, una grandissima danzatrice, ci aveva messo in contatto ai tempi. Sì, esatto. Siamo state messe in contatto grazie diciamo, all'archeologia esoterica, ai viaggi spirituali, ma poi di fatto il tutto è diventato molto più profondo, perché a un certo momento della mia vita io cercavo una maniera alternativa di pubblicare il mio lavoro e non volevo più stare nel business editoriale, in quella sorta di mondo in cui l'autrice viene trattata come una venditrice di pentole che deve fare fatturato e cercavo una maniera diversa di esprimermi e di mettere a disposizione i miei scritti del pubblico e Loba mi ha offerto di ricoverarmi sotto questo suo cappello che si chiama Edizione dell'autrice, ombrello, diciamo, che però trattiamo dopo. Io partirei, mi sono fatto una scaletta, qui abbiamo concordato effettivamente una scaletta delle cose più interessanti, perché riuscire a dire tutto quello che ha fatto Antonella Barina è impossibile. Lei ha fatto dal fumetto al teatro di strada, dalla drammaturgia in rima, in dialetto, alle poesie, alla prosa, agli articoli, ai saggi. È un'opera talmente immensa. Io credo che tu abbia scritto perlomeno una cosa al giorno. Se calcoliamo che hai scritto negli ultimi 55 anni almeno una cosa al giorno, facciamo il conto di quanti giorni ci sono, io penso che si vada sul milione, insomma, giù per di là. Allora, parliamo poi di come persone come noi, donne come noi, che non riescono a scindere la professione dalla vita, dalla missione, sono coscienti che ogni parola che dicono, che scrivono, diventa una forma di attivismo, perché non esiste separazione, no? La nostra vita, la nostra missione, la nostra parola, pronunciata o scritta, fanno parte di un unico obiettivo, che è quello di promuovere l'energia femminile, per la sororità, non soltanto per noi. Ed è in quest'ambito che si inquadra il lavoro di attivista con la penna di Antonella Barina, perché io credo che l'80% delle cose che tu hai scritto, tu le abbia scritte con l'idea di valorizzare, di promuovere il sacro femminino, le donne e il ricordo della Grande Madre. Tra le migliaia di cose che hai scritto ci sono i landai, gli haiku, che tu non ti sei limitata a scrivere, ma di cui hai anche creato la lettura di gruppo in locali pubblici, nelle piazzette di Venezia, piuttosto che nel tuo giardino, perché erano delle forme un po' ante litteram di cerchi sciamanici, diciamo, cioè il vivere la propria missione con spiritualità, con coscienza, con consapevolezza, quindi l'usare il potere generante della parola per creare anche delle realtà attraverso la forma pensiero che siano delle realtà potenzianti per le donne e non limitanti. Quindi il Landai di cui tu, che tu hai scritto in gran numero e pubblicato, anche perché io ho qui uno dei tuoi libri che è Venus Venezia ed è bellissima, una delle raccolte più belle che ho visto di tue poesie e di tuoi lavori, i suoi canti per Languana, le sette canzoni per Languana, eccetera. I Landai sono delle forme poetiche di due righe, credo siano 7 e 11 sillabe, se non vado errata. No, 9 e 13 Ecco, l'andai. 9 e 13, che sono una forma poetica che viene dalle donne afghane che utilizzavano. Vuoi raccontarlo tu, che lo conosci meglio di me, che cos'è il Landai? Le donne afghane utilizzavano questo, a mio avviso, originariamente per canti d'amore, ma anche sono stati poi usati per denunciare le forme di violenza a cui sono sottoposte. L'idea di applicare il Landai a quello che sta succedendo qui da noi è stata veicolata da Vittoria Ravagli e anche Marco Ribani, era anche un uomo su questa spinta iniziale. Il primo incontro è stato su Bologna e io sì, sono stata effettivamente la prima a non dare i primi tre, però ci tengo e sono stata in quell'occasione molto ferrea nel far sempre tenere presente la genealogia di un'idea, proprio l'ho fatto quasi in chiave sperimentale a quell'altezza. Quindi abbiamo Vittoria, e poi con Vittoria e Chica Morone abbiamo curato la raccolta di Landai per le poesie brevi per la libertà delle donne, che raccolgono i Landai di 105 poete. E quello che a me è piaciuto tanto di quel libro, oltre al significato in sé e alla forza che ha avuto, sì, è stato quello che abbiamo letto sulla Grande Madre a Torino. Oltre a quello che quello che a me è piaciuto di quel libro è che siamo riuscite con una certa difficoltà, ma a ricostruire tutti i passaggi. A un certo punto Angela Marchionni arriva e fa una mostra con delle stele con i nostri landai, cioè anche tutte le tappe con le date, perché così si fa storia delle donne. Non è che adesso Devana dice una cosa intelligente, io vado fuori e me la rivendo come mia e ottengo, cosa ottengo poi, cioè, capito? Anche Invece perché di cose tante. intelligenti ne dico parecchie, quindi finiresti per arricchirti. Ecco, i Landai sono stati proprio una bella opera collettiva per la grande partecipazione di donne. Sono arrivati fino in Sud America, dove altre centinaia di poete l'hanno fatto. È stato davvero un prodotto collettivo che ha anche rispettato storicamente la genesi dell'idea. Ecco, vorrei leggervene un paio, perché la cosa particolare è proprio questa formazione di due righe con questo numero fisso di sillabe che le rende qualcosa di più di un semplice componimento poetico, è quasi co come se fosse un laser in poesia, una parola che denuncia e crea in poco tempo, perché sono donne che sono perseguitate da sempre, per cui evidentemente un po' come le donne cinesi che scrivevano con il Nushu, questo linguaggio segreto che avevano inventato e che scrivevano nelle bacchettine dei ventagli per comunicarsi tra loro quello che succedeva, le violenze domestiche, insomma, anche le donne afghane utilizzavano questo sistema. Ne leggo una. Mi hai afferrato per la gola, senti come urlano le mie sorelle. È uno dei primi. Mi avete dimenticata, dunque sono riuscita nel mio intento. Non occorre che mi difendiate, vostra madre non si piega davanti a nulla. Figli, sono innamorata, che il peso di me lasci il vostro cuore. Un tempo era una palma, non c'è più il deserto, ma un immenso palmeto. Ecco, questi sono i landai di forza, resistenza e gioia. L'ultimo, eccolo, qualunque cosa mi facciate, i miei sogni continuano a vivere in me. Sentite la forza con cui si imprimono queste poche sillabe, che contengono in realtà una vita intera magari di delusioni, di abusi, di tristezze, di prigionia. Ecco, diciamo che lo step. Sì. Ecco, sì, c'è stato un apporto mio, è stato quello di sollecitare, e difatti quelli sono i landai di forza, resistenza e gioia, di sollecitare il fatto di uscire dalla denuncia per fermare la forza o le varie fasi del processo di liberazione. Ecco, quello è stato il mio contributo effettivamente originale nell'ambito dei Landai. Grazie. Certo, no, ma è giusto perché anche noi sempre diciamo basta vittimismo, cerchiamo di usare la nostra energia in forma potenziante, in forma costruttiva invece di autocommiserarci. Quindi è una precisazione importante. Così come è importante ricordare che tu non ti sei limitata a scriverli questi, ma hai organizzato delle letture collettive in strada. Quindi hai fatto diventare la poesia teatro di strada, perché tu hai fatto tanto teatro di strada, con testi scritti da te, recitati da te e cantati poi da altre artiste con cui hai collaborato. Io credo che il fatto di fare letture collettive di poesie di Landai nelle callette di Venezia sia una cosa talmente particolare, credo che l'abbia fatta solo tu. Penso che questa sia proprio una cosa tua. Abbastanzetta. Beh, più che altro quello che non riesco a cancellare dalla memoria, dovrei cancellarlo invece, è che un mese dopo che lo scoppio del conflitto Russia-Ucraina-Ucraina-Russia, io ho indetto un flash mob. Accidenti, una volta sono riuscita a farne uno. Mi servivano 170 persone per un flash mob sugli alberi, ne sono arrivate 230. Un mese dopo lo scoppio di quel conflitto, io mi sono trovata da sola e allora sono andata in Campo San Giacomo dell'Olio e ho piantato dei rami presi dal mio giardino con scritti gli haiku e lì ho fatto una mini mostra, per cui non bisogna aver paura se si è sole, non siamo mai sole poi alla fine. E bene, se vengono tante persone c'è proprio un effetto che non è magari immediatamente, non veicola subito il 100% del contenuto che tu vorresti portare fuori, ne veicola il 30%, va bene. Per il 40 lo replicano e lo distorcono, però passa qualcosa. In ogni caso, sì, io ho proprio fiducia che la parola, anche se pronunciata sommessamente, penso alla preghiera e alla meditazione, eccetera, abbia il suo impatto energetico. Un'altra cosa importante del lavoro di Antonella, con il quale siamo molto molto in simbiosi, è il viaggio spirituale, sciamanico, consapevole. E però lei di fatto questo cammino sciamanico alla ricerca dei luoghi della Grande Madre, della, diciamo, della cultura mediterranea, lei la stava già camminando questa via sempre dagli anni 70, per cui in realtà ha iniziato a fare una cosa che oggi va molto di moda e che però all'inizio, quando lo faceva lei, era proprio tra le prime, cioè ripercorrere, ricercare le tracce della dea, delle antiche culture matrifocali di cui ci ha parlato Maria Gimbutas, di cui ci ha parlato Riane Heisler, andandoli a cercare una cosa che ho fatto anch'io, ma io l'ho fatta dopo di lei. Un po' anche per motivi di età, perché ho qualche annetto di meno, per cui quando ho potuto iniziare a rendermi conto che esistevano delle orme, delle antiche civiltà matrifocali sul pianeta, sono andata anch'io a cercarle. Ecco, Loba ha viaggiato, restiamo intanto nell'area mediterranea, perché ovviamente hai viaggiato anche fuori, ma diciamo alla ricerca delle impronte, delle tracce che la cultura della Grande Madre ha lasciato nel bacino del Mediterraneo e ne hai scritto in forma poetica, inventando, secondo me, un genere letterario che prima non c'era, cioè anziché il diario di viaggio, la poesia di viaggio, ossia quando ti trovavi nei luoghi della Grande Madre che ti comunicavano, che ti risvegliavano delle memorie, ti comunicavano delle emozioni, tu scrivevi dei componimenti poetici. Ecco, una pubblicazione, diciamo una raccolta di questi suoi componimenti durante un viaggio in Turchia è stato pubblicato, si intitola Turning, Le città della luna, che riportano i componimenti, le poesie che lei ha scritto viaggiando attraverso le varie città della Cappadocia, tra cui Kaimakli e la famosissima Göbekli Tepe e Çatalhöyük, Tal Çatalhöyük, esatto. E ne è venuto fuori un libro per cui lei ha viaggiato e ha scritto sulla simbologia dei luoghi diciamo, dei mitologemi della cultura mediterranea, moltissimo. Io ho qui un suo libro che è degli anni 70, forse anche, no, degli anni 70, vedrei. 1980 ho pubblicato. Ah, ecco, però eri ancora una ragazzina, insomma. Questo è La sirena nella mitologia, è uno studio che noi abbiamo usato come libro di testo in scuola delle donne perché praticamente cerca le origini del simbolo della sirena, sia la sirena bicaudata, che è la nostra bandiera della scuola delle donne, sia anche la sirena con la parte inferiore del corpo di uccello. E io vorrei chiederti di, ecco, e una cosa importante che hai fatto durante questi tuoi viaggi è il viaggio mentre eri incinta di tuo figlio, tu hai viaggiato in questi luoghi quasi come se volessi trasformare la tua gravidanza in un cammino spirituale. Sono stata inizialmente attratta, diciamo anche dalle idee potenti e terrifiche, accorgendomi poi che per ciascuna di loro in precedenza c'era stata una dea cosmogonica, una creatrice del cosmo, c'era stata una dea che dava gli strumenti, dalla tessitura a tutti gli altri. Oppure è una dea tutelatrice del parto. E ora, rispetto a quello che ero, ecco, l'unica infrazione rispetto a quello che io mi aspettavo è stata che ho fatto figli, perché avevo deciso di non farne perché ce n'erano già tanti eventualmente da adottare, e tante. E lì gli studi hanno modificato la mia scelta di vita. Poi, al quarto mese, sono proprio partita Sardegna, Sicilia, poi Malta col bimbo a 3 mesi, Creta, Corsica, via. Era soprattutto il Mediterraneo insulare. Però ecco, quello che vorrei dire e ricordare che è bene sempre partire da sé, ossia non uno studio per imporre la dea a tutti i costi, ma cercando nella propria storia e dentro di sé la motivazione per farlo, altrimenti si rischia di perdersi e si rischia di perdersi anche, non dico mai cose che non abbia sperimentato di persona, e si rischia di perdersi anche in quel senso di onnipotenza. Io direi di ricordarci sempre di avvicinarsi con grande modestia alle manifestazioni del divino femminile che è in noi, comunque, di cui siamo portatrici anche senza salire sull'altare. Ecco, tu Anzi, restiamo attenti. hai scritto Anna Tanrizza, che è proprio, secondo me, una di queste manifestazioni. È come se tu avessi sentito sorgere da dentro di te la grande madre, perché tu scrivi, e dopo io la leggo e poi ti chiedo di commentarla, tu scrivi me del terremoto, me di Ascia Bipenne, me sul trono di Leopardi, me con la luna e il toro. Me di Alfa e Omega e del ritorno. Ce la commenti, per favore. Sì, i me, appunto, sono gli strumenti che Ishtar o Inanna abbandona nel corso della discesa verso il regno di Erischegal e che poi riacquisterà risalendo. È un mito, tra l'altro, stagionale, che racconta come le stagioni si alternino. E finalmente ad Ankara mi trovo davanti a lei, la dea di Çatalhöyük, l'ho pronunciato come detto prima Devana, e al museo di Ankara e lì mi è uscita, sì, la metto per immedesimazione, anche perché è cicciotta, e mi è uscita quella trascrizione di illuminazione, ecco, sì, Turning, che c'ho qua, questo ve lo faccio vedere, vediamo se mi riesce. Questa era, sì, l'edizione che ha fatto Empiria nel 2005, il viaggio era del 2000. Direi che è proprio una trascrizione, un diario di tutta una serie di illuminazioni avute durante il viaggio. Ecco, parliamo adesso allora di autoeditoria, che è secondo me la cosa in assoluto più importante che hai fatto, perché è un manifesto programmatico quello che tu hai creato di indipendenza della creatività femminile. Ti ringrazio per averlo ripubblicato per noi, per la Scuola delle Donne. Nel 2001 tu già scrivevi che volevi creare diciamo, un veicolo per poter scrivere liberamente quello che sentivi senza bisogno di rendere conto a caporedattori, a direttori. Purtroppo è una situazione che conosciamo e che ancora oggi è pesantissima, quella del controllo costante del mainstream da parte della politica, da parte dei gruppi di potere, e funziona nel grande come nel piccolo. Io anche nel mio piccolo ho subito delle pressioni, così come Antonella, cioè difficilmente stando nel mainstream puoi scrivere quello che ti pare quando ti pare. E la comunicazione non è mai libera, non lo era 50 anni fa, non lo era ai tempi di Matilde Serao, non lo è neanche ai tempi nostri. E quindi qui la relazione profonda tra me e Loba e Antonella, perché lei mi ha accolta nella sua edizione dell'autrice e mi ha dato la possibilità di pubblicare insieme ai suoi libri anche i miei. Potendoli poi lasciare gratuitamente disponibili e scaricabili su internet, ma con un minimo di protezione che è quella che lei mi dà attraverso la registrazione al Tribunale di Venezia, proprio come edizione dell'autrice. Ecco, ti chiedo di parlare di edizione dell'autrice, di come è nato e di che cos'è, come è nata e di che cos'è. Eh Femmina. sì. Sì. Beh, per pubblicare Madre Marghera, che erano le poesie dal 67 al 97, sulla percezione dell'abitante della zona industriale veneziana, e che ho visto gli editori, perché sono quelli il vero sbarramento, o comunque sono loro che sono utilizzati come diga di sbarramento, e all'inizio entusiasti, che bella idea, poesia su Marghera, e nel giro di 3 giorni impauriti si fermavano, recedevano, quindi Madre Marghera è edita in proprio con tutti i crismi. Ma è stato poi quando ho fatto Canto della Qualta e per Venezia e Mestre Niente, che è sulla desertificazione urbanistica e la strategia della tensione, che mi sono resa conto che quelli proprio non c'era neanche da tentare. E quindi ho incominciato a diffondere in manoscritti, cioè copie delle copie da tirografate, con la scritta edizione dell'autrice, che poi ho detto beh sì, e sono andata a registrarla al Tribunale di Venezia come titolo della testata. Quindi edizione dell'autrice è una testata giornalistica edita in libri di tutte le dimensioni e di grande varietà. È un bimensile, però una volta all'anno. Minimo, ho sempre fatto anche un altro prodotto che non veicolava solo la mia poesia, ma anche quella di altri. Rivendico poi il fatto di poter fare informazione attraverso la poesia. Ci sono le 5 V, chi, come, cosa, www, io aggiungo era la sesta e la settima, comunque l'ultima era il oh, l'esclamazione di stupore, perché la notizia, quando è notizia vera e non arginabile, non ancora controllata, dà stupore, dà illuminazione. Quindi, attraverso questa, diciamo, revisione dei diktat giornalistici, ho usato fare informazione attraverso la poesia e indurre tante altre a farlo con un appuntamento annuale che era meditare. M' editare, quindi io medito, edito me stessa e nel frattempo medito sul fatto di autopubblicarmi. Lì sono passate decine di poete e anche poeti, o scrittori, scrittrici e scrittori, che alcuni hanno poi proseguito la cosa, altri magari hanno fatto solo un numero, ma hanno sperimentato questa possibilità di esprimersi senza aspettare il principe azzurro, perché l'editore conosciuto in treno, che capisce che tu hai scritto un'opera pari a quella di Dante, non c'è, non c'è. C'è nella nostra piccola vita, nella nostra breve vita, la possibilità di veicolare, di fare degli incontri nei quali dare quello che riusciamo, quello che abbiamo composto, quello che sentiamo. E io credo poi però c'era un modesto principio omeopatico per cui, con l'omeopatia, che più la dose è minore è la dose, maggiore è l'effetto. E io devo dire che ho sperimentato anche questo, perché gli apparati si mettono molto così in concitazione se c'è qualcosa che può essere repressa subito prima che si sviluppi, e finiscono per ampliarla, così come la censura finisce per indicare ai posteri dove devi andare a studiare. I verbali delle streghe, sì, tante donne che non chiamerei streghe, chiamerei guaritrici, veggenti, terapeute, ecco, ostetriche, tante donne di sapere e conoscenza sono state eliminate, però ci restano le loro parole e la storia di in che condizioni i nomi delle dee da loro adorati ci vengono adorate, ci vengono anche attraverso quei verbali. La censura finisce per sottolineare quello che vorrebbe cancellare. Ecco, nel 2001, vale a dire un quarto di secolo fa, tu scrivevi: intendo per fuori mercato lo spazio amplissimo in cui si colloca la scrittura libera, o per meglio dire quella scrittura che vive della propria necessità, che si fa un processo metabolico necessario all'autore o all'autrice in modo assolutamente indipendente, ecco, da una funzionalità sintonizzata sulla logica dei diversi sistemi di mercato. Essere autori, autrici, significa filtrare la realtà attraverso di sé, attraverso la propria fede, le proprie opere, a partire da sé, dalla propria storia, dalle proprie idee. Le leggi dell'attuale industria culturale, e mi associo assolutamente nell'utilizzo di questa espressione industria culturale perché io stessa sono stata accusata ho cambiato 7 editori prima di trovare te e tutti mi hanno accusato di non darmi abbastanza da fare per vendere i miei libri, tant'è vero che io a un certo punto ho detto scusate, io credevo di essere quella che li scriveva i libri, dovevate essere voi a venderli, se no tanto valeva che io me li stampassi, ecco, quindi proprio trattata come una venditrice di pentole che deve fare fatturato, salvo che poi i soldi della vendita se li tengono loro. Quindi le leggi dell'attuale industria culturale oggi non consentono a questa pratica la diffusione necessaria a farne conoscere i prodotti a un pubblico allargato. Essere fuori mercato, tra virgolette, è in molti casi il risultato di una serie di scelte, di una selezione operata dall'autore che segue o autrice che segue la propria vena, tanto da non accettare taciti sistemi di scambio, da non voler dare garanzie politiche. Importantissimo questo. Adesso sta saltando fuori con queste recenti indagini che per poter fare carriera nel mondo della comunicazione del mainstream bisogna avere una tessera politica. Perché la funzionalità ad un sistema confligge con la veridicità della propria ricerca. Dare garanzia del proprio orientamento, essere affidabili, tanto da far sì che colui o colei che investe su di te possa essere sicuro, sicura di non averti mai contro, significa concepire prodotti preconfezionati. La scrittura libera è per sua natura infedele, inaffidabile, ingestibile, incontrollabile, politicamente davvero indipendente, noi diremmo geneticamente indipendente. La scrittura libera è fedele a se stessa, si affida ai propri input, autogestisce la propria crescita. Ecco, perché dovrebbe un mecenate investire in qualcosa di assolutamente non garantito, quindi un tipo di scrittura che potrebbe anche ritorcerglisi contro dicendo la verità, no? Bizzoso, umorale, sgamato, che fa il proprio gioco, capace di autorevolezza ma che non accetta autorità. Perché mai il sistema di controllo che la somma dei fattori pone sulla soglia della distribuzione dovrebbe mostrarsi debole, non vi è ragione che lo faccia e infatti non lo fa. Ecco, è in atto a livello culturale la stessa lotta che è in corso nel mondo a livello genetico, scriveva Antonella Barina nel 2001. In sostanza è un po' l'intuizione che bisogna creare una realtà parallela, perché nella realtà ufficiale, diciamo, nella narrazione ufficiale che ci spacciano per realtà, non c'è posto per persone come noi che vogliono davvero essere indipendenti, sia culturalmente che operativamente che emotivamente. E quindi quello che stiamo un po' cercando di fare come Scuola delle Donne e con Antonella come amica sostenitrice da sempre, fin da subito, è quello di creare una dimensione parallela che non vada a confliggere, che non vada a scontrarsi con quella ufficiale, perché il conflitto indebolisce. Quindi noi viaggiamo sul nostro cammino, lasciamo che gli altri vadano dove devono andare e costruiamo intanto sempre più forte, sempre più resistente, sempre più consapevole un'altra dimensione che è quella femminina. Me la vuoi commentare questa? Dalle caratteristiche direi rizomatiche, ossia le cui radici, le cui propaggini che poi germoglieranno magari distante dalla stessa pianta, non hanno un andamento prevedibile. Mi è capitato che avevo proposto per un gruppo che si chiamasse Caravanserragli Poetici Veneziani, nel senso che erano gli altri ad essere i caravanserragli quando ospitavano noi per la lettura. E volevano assolutamente sapere, in una importantissima istituzione veneziana, di cosa si trattasse e qual era il nostro programma. Cioè, erano molto allarmati perché con tutte quelle che sì, avevo promosso prima. E io lì ho dovuto dire, io non posso spiegarvi cos'è Caravanserragli, in quanto neanche io lo so domani cosa avrò desiderio di andare a leggere in pubblico. Quindi, pur mantenendo fedeltà a me stessa, la mantengo nella possibilità anche di mutare e quindi nella realtà di non essere prevedibile neanche a me stessa. E quindi, insomma, proprio la libertà assoluta che non è improvvisazione. Una delle altre cose importanti che ci uniscono è la consapevolezza che tutto questo lavoro che facciamo non può essere venduto, ma solo donato. Non può passare attraverso il sistema monetario perché, primo, è impossibile determinarne il valore. Secondo, perché verrebbe immediatamente squalificato se fosse venduto, no? Assolutamente sì, assolutamente sì. Ok, e siamo all'ultimo punto. Che è, diciamo, il Lì co. c'è un passaggio di una vecchia poesia dove dicevo volevamo abolire il denaro, ce l'hanno fatta pagare cara. Io credo che una evoluzione positiva non può non passare attraverso l'abolizione del denaro. Sono Ammesse le conchigliette. perfettamente d'accordo. Passiamo all'ultimo punto, ma è stata veramente una scaletta stringatissima. Io credo di non aver toccato neanche il 10% di tutto quello che hai fatto perché è impossibile. Però diciamo che una delle cose tue che mi risuonano di più è la saggistica che studia e reinterpreta la vita delle donne alla luce di una visione che non è quella androcentrica, che non è quella maschilista. E abbiamo forse in qualche modo ricevuto lo stesso tipo di input di intuizione, forse dalla stessa fonte, perché più o meno nel momento in cui io scrivevo Antenate, primo e secondo volume, che tra l'altro mi hai pubblicato tu con edizione dell'autrice, tu scrivevi Venezia Xenitea, al quale ho collaborato, e di cui alcuni racconti sono anche stati audioletti e sono sul canale, e poi Donne Sante Dee, che è una rivisitazione delle grandi donne di Venezia, che poi è stato clonato in diversi modi. Ecco, come è nata quando la consapevolezza di dover riscrivere la storia delle donne con un'ottica diversa da quella, a cui siamo abituate e addestrate? Proprio com'è nata, siamo nel 1980, gruppo Donna in Formazione. Arriva Anna Minio con una storia, in breve, un piccolo saggio, su Elena Arcangela Tarabotti, monaca nel 600 a Venezia. E io desidero immediatamente farne un testo teatrale, in cui Tarabotti parla solo attraverso le parole attraverso i propri scritti. E questa cosa è qui che è rizomatica, è andata che la strada può essere rizomatica, è andata in scena per due volte. Nel 1982, con tutto esaurito al Teatro Goldoni di Venezia. E perché lì ho teorizzato che l'informazione, la storia poteva essere veicolata come informazione attraverso il teatro. Elena Arcangela Tarabotti, Elena Cassandra Arcangela Tarabotti, le cui iniziali compongono Hecat, è stata poi nel tempo la mia figura guida. Quando ho dovuto attraversare la professione giornalistica attraverso le diverse strutture che ho sperimentato, avevo già avuto dai suoi scritti avvisaglia di tanti trabocchetti. Ad esempio, le inserivano degli errori nei libri di testo, i tipografi, così per darle fastidio. Però ricordiamoci che la memoria, il fare storia, era uno dei principi di quel femminismo originario, nel quale io credevo. Venezia Xenitea era ecco, la comunione con antenate, entrando in collegamento con loro, no? invece con la collega Zamburlin ho detto basta, li facciamo i connotati a Venezia. Nel frattempo sei o sette donne famose venivano anche tirate fuori ogni tanto dai colleghi su qualche giornale e noi ne abbiamo tirate fuori durante il Covid 154, aggiungendone 200 o 300 come nome. Devane, il fatto è che se vogliono stopparti, ti stoppano, nel senso che a noi è stato rinfacciato purtroppo dall'editrice, da una donna, di aver fatto troppe presentazioni, ne abbiamo fatte a nastro, ci siamo divertiti un casino, e però non ha più voluto ripubblicare il libro, quindi è stata intimorita, perché capisco che 154 donne che ti arrivano sulla storia di Venezia ti costringono a rivederla fin dall'inizio. Quindi, io, parlando della donna, io sono sempre stata molto intenzionata a risemantizzare insieme donna e natura, e in questo binomio demonizzato, notturnizzato, eccetera, in questo binomio sta anche la speranza di una continuazione della specie, se qualcuno interessa. Beh, direi che lo stiamo facendo, visto che abbiamo quasi 9.000 iscrizioni al canale YouTube ormai, è più una piattaforma su archive e una su accademia, direi che ci stiamo ampliando. E le 200 donne che ci seguono quotidianamente, che dicono è diventato come il caffè, accendere YouTube alla mattina e ascoltare quello che ha da dirci la scuola delle donne anziché ascoltare il telegiornale, direi che il seme sta radicando, insomma. Io vorrei concludere con la poesia tua che io amo in assoluto di più, che è stata un po', diciamo, la base musicale della nostra la fondazione del Cerchio Planetario delle Donne, che è Chekeré del 1993. Io cerco la dea che contenga la mia anima, una dea così grande da abbracciare i frammenti di me sparsi per il mondo. Io cerco la dea che uccide senza uccidere, la dea mai nata da alcuno, che fa nascere, la dea che lascia le sue tracce, ma non è mai passata di là. Io l'ho cercata in forma di serpente, io l'ho cercata come uccello e pesce, io l'ho cercata con le sue mille teste, e tutte le volte che l'ho vista mi è sfuggita, tutte le volte che l'ho udita non l'ho vista. Cerco la dea della forza delle donne. Una dea giusta per i figli e per le figlie, la dea del cielo e della terra, la dea dei quattro elementi, l'orisha del sorriso e della memoria. Cerco la dea che apre il cerchio della storia. E noi qui l'abbiamo trovata nel cerchio della scuola delle donne in cerchio. Parlando dell'autoeditoria, una delle domande che mi era venuta è quando parlavi della maternità dell'opera e il confronto che fai con quello che sono i diritti d'autore, insomma, della modernità, no? Dell'editoria moderna. E questa figura mi è piaciuta particolarmente, volevo sapere se avevi voglia di spiegarci un po' meglio cosa intendi per maternità dell'opera. Beh, per esempio, edizione dell'autrice che ha tante motivazioni, una base era: non riesco a concepirne un'altra se ne ho una nella pancia che deve ancora uscire e che non nasce finché il Principe Azzurro non me la fa pubblicare da qualche parte. Per cui io avevo bisogno di sgravarmi per poter rifecondarmi con un'altra opera. Quindi ho sempre usato, avendo come ideale la congiunzione degli opposti, ho sempre cercato, ad esempio, di se faccio un'operazione intellettuale che corrisponda anche a un lavoro del corpo, un lavoro mi corrisponda il corpo che poveretto ho strapazzato durante tutta la vita, come mi sono strapazzata anch'io dappertutto, ma mi è piaciuto consumarmi, ecco. E quindi sì, è un tentativo. Le metafore che uso per l'editoria legate al materno hanno anche questo scopo, una congiunzione degli opposti, non solo mente, anche cuore, anche piedi, anche ginocchia sbucciate sulle rocce, capito? Anche godimento, esserci intere, ecco. Al termine di questa interessante intervista con una delle nostre autrici preferite, nonché madrina della scuola, vogliamo offrirvi la lettura di un suo racconto breve ispirato da una nostra classe sull'economia femminile della libera condivisione, dove abbiamo spiegato come Rosa Luxemburg nell'accumulazione del capitale e io stessa nel mio Economia, il futuro senza denaro, si sia dimostrato come il passaggio dall'economia naturale senza denaro né debito a quella mercantile che fu l'anticamera della creazione del marketing con le sue leggi spietate, ha portato all'umanità un impoverimento materiale e spirituale diffuso. La legge del marketing, insegnata nelle facoltà di economia, enunciata come creazione del bisogno, risulta nel racconto di Antonella come la conseguenza del mercantilismo inaugurato dai veneziani Marco Polo, da suo padre e da suo zio. Ed ora di Antonella Barina, la cometa di Marco Polo. Perdono, perdono, perdono! Una sommessa voce maschile risuonava in campo secondo, detto del Million. Noi due attori, i presenti, Berto Biava e Cesco Gata, si veniva da Castello. La colpa è della stella cometa, diceva la voce. Appena distinguibile quel sussurro proveniva dal sottoportico, sulla destra, coronato da un arco scolpito con draghi e colombe, oltrepassato il quale si accede a corte prima del Million. Inoltrandosi in questa direzione, però verso il teatro Malibran, la voce si affievoliva, dunque veniva proprio dal sottoportico, dove però non c'era nessuno. Quello che raccontiamo è la pura verità, signor procuratore. Una targa nei pressi del Malibran recita: il vicino tempio del culto di Thalia fu già abitazione di Marco Polo, patrizio veneziano illustrissimo per la fama dei suoi viaggi. Tempio di Thalia, in quanto, come lei, signor procuratore, sa certo benissimo, è questa la dea della commedia e della satira. La prima praticata nei secoli d'oro della città, la seconda, la satira, un po' meno perché la Serenissima la considerava portatrice di disordine e in effetti proprio per questo. A Venezia non vi sono più teatri, tranne quelli di regime pubblico. No, no, senz'altro non divaghiamo, nulla contestiamo, per carità. Tant'è, lì un tempo c'erano le case dei Polo, acquistate al rientro dal lungo viaggio in Estremo Oriente, andate a fuoco circa 5 secoli fa. Di tutto il costruito successivo e rispetto al teatro, senz'altro l'arcone veneto-bizantino dei draghi e delle colombe è la vestigia più antica. Chissà quante volte il viaggiatore veneziano più famoso del mondo lo ha attraversato. Chi era la persona afflitta che chiedeva perdono? Un attimo, ci arriviamo, ci lasci il colpo di scena. Perdono, perdono, bisbigliava la voce misteriosa. Avrei dovuto saperlo, lo sapevo. Gli astrologi me lo avevano detto. Ah, perdono, perdono. E non smetteva di lagnarsi. Di che ti disperi? Gli abbiamo chiesto, per nulla terrorizzati della stranezza di percepirla senza vedere da dove proveniva, poiché le calli di Venezia risuonano spesso di voci lontane nel tempo, almeno per chi le ascolta, come è capitato a noi. Oh, rispose la voce, non è che mi disperi perché mi arrostii la gola col pepe indiano, né per aver ingollato latte di cammella, aver nuotato nei datteri, essermi inzuppato nel vino di riso fino a veder volare unicorni e neppure per essermi ingozzato di interiora di montone, carne di serpente e fegato crudo, astenendomi solo dalle mense di fuciù i cui abitanti si cibavano dei propri nemici. Oh no, non di questi fatti mi dolgo, ma le sete che avevano, le spezie, il tè. E ricominciava: perdono, perdono. Doveva essere proprio grave ciò che aveva commesso, perciò invitammo la sconosciuta presenza a sgravarsi la coscienza e farci sapere chi era. Il sospetto che avevamo fu certezza quando si identificò. La mia bella presenza, disse, quella bellezza d'asino dovuta alla giovane età e la mia abilità nella parola, giacché ero figlio e nipote di mercanti, mi valsero l'accoglienza positiva che ebbi dal Kublai Khan e il prestigio che ben presto acquisì presso la sua corte. Ah, perdono, perdono! Non la stiamo prendendo in giro, signor procuratore. Così in nostra presenza davvero si doleva Marco Polo, ma non dava lumi su quale fosse il crimine per cui voleva fare ammenda. Me lo avevano detto gli astrologi, borbottava. Le comete sono presagio nefasto. Il passaggio di una stella cometa annuncia difficoltà, cambiamenti, disordini. La sua comparsa segna la fine di un'era e l'inizio di un'altra. Avrei dovuto tenerne conto. Invece, nel libro che porta il mio nome, dove non dissi che metà delle cose che ebbi a vedere, per scaramanzia del passaggio della cometa, non feci menzione. Perdono, perdono. Ma lo raccontai a Pietro d'Abano, astronomo e viaggiatore, come no? E come se glielo dissi, anzi gliela descrissi bene la cometa che vidi passare nel sud del Mar Cinese, gliene feci anche il disegno. Una stella a forma di sacco che aveva luce come di nuvola e una grande coda, un evento unico e raro. Negli annali cinesi il passaggio della cometa fu documentato con precisione. La cosa, andando per le lunghe, lo sollecitammo ad una spiegazione più chiara, ma non disse nulla che già non sapessimo, come il successo della missione politica e diplomatica in Cina, in cui nessuno di quelli che lo avevano preceduto era riuscito. Fui io, raccontò incomprensibilmente rammaricato, a instaurare le relazioni tra i due continenti, perdono. Gli ricordammo, nel caso lo avesse dimenticato, che proprio per questo era così amato e ricordato in tutta Eurasia, ma vie più questo lo fece sospirare di dolore. Insomma, gli dicemmo infine, ricco e fortunato come pochi mai a Venezia. Hai visto tanto mondo che in 10 vite un comune mortale mai vedrà? Quante mogli hai avuto lo sai solo tu, e a parte quella breve parentesi a Genova, grazie alla quale incarcerato dettasti a Rustichello le tue memorie e diventate il libro di viaggio più letto di tutti i tempi, di che ti puoi lamentare? Uno strider di unghie e denti riempì il silenzio, che seguì alla nostra domanda diretta, poi sbottò. Sono io che ho inaugurato il mercato globale. Com'è possibile che non lo capiate? Restammo di sasso. Che colpa era mai quella per la quale era stato tanto glorificato? Nonostante gli astrologi avessero tratto il presagio, continuò sempre più affranto. Procedevo sicuro aprendo la più grande nel mondo via del commercio. Prima la gente era felice se aveva un paio di scarpe di pelo fatte col manto di una capra. I più nobili vantavano papuzzette d'agnello, benché andasse ricamate dalle buranelle, ma non fu colpa mia, fu colpa della cometa. Ecco, adesso, proseguì salendo di tono, lo sviluppo del mio misfatto. In tutto il mondo, cattedrali del commercio grandi, 30 volte la Basilica di San Marco. Gente che si ammazza in ogni dove per accaparrarsi l'olio di roccia, con il quale produrre sempre di più. Il petrolio, precisò, e le terre rare. Risultato? Carestie e fame ovunque. E tutti, tutti, tutti sommamente infelici. E Venezia? Dove sono i maestri orafi che creavano sotto i portici di Rialto? Gli indoradori che davano luce aurea al mobilio dei palazzi? Gli specieri che fabbricavano specchi d'argento? Gli spezieri con le aromatiche delle nostre terre? Ah, perdono, perdono! Non ci bastavano, inveì all'improvviso, l'anice, che pure veniva dall'Egitto, e la cannella d'India, no, sempre più in là, e il coriandolo mediterraneo, il mirto del Mare Nostrum, la mentuccia che cresceva ovunque, e l'arnica montana che ha proprietà tali da resuscitare chi si ammacca, la timida camomilla che concilia il sonno. Non bastavano, sempre di più, di più, di più. Bilance piene di nuove spezie, carichi odorosi e traditori. Non bastava lo zafferano persiano, cortesia di scambi all'inizio, poi denari, soldi, bronzei, perfino moneta di carta, mai vista prima. E il crin friulano, dove lo mettiamo, il crin? Signor procuratore, per davvero lo giuriamo, era letteralmente fuori di sé, incontenibile. E mentre eravamo intenti a dialogare, cercando di calmare l'illustre concittadino, sono arrivate le guardie che, credendoci pazzi o del tutto ubriachi, volevano portarci via, ma capirà bene che non era il caso di interrompere un tale colloquio. Era Marco Polo stesso che ci supplicava di continuare ad ascoltarlo e ci siamo sentiti in dovere di fargli da pubblico. Anzi, lo stavamo facendo ragionare. Era stata la cometa. O non era per caso stato lui a bearsi alla corte del Gran Khan? Chi si era dato da fare per vendere e comprare il vendibile e il comprabile? Era la stella ad avere in tasca i dispacci, per i sovrani esteri, il Papa innanzitutto. E in questo eravamo intenti quando sono arrivate le guardie. Non abbiamo inteso ribellarci alla pubblica autorità né opporci al pubblico ufficiale e men che meno mancargli di rispetto. Ditelo al mondo, urlava Marco Polo alla fine, che sono pentito, che le merci non valgono l'anima, che quello che si produce sotto casa dà più felicità di ciò che si acquista, togliendo il pane di bocca a popoli dall'altra parte del mondo. Che un paio di scarpe ben fatte dura 10 anni e non serve comprarne uno al mese. Ditegli che ignorare il presagio della cometa fu una ragazzata, una sbadataggine, una... Ah, quanto avrei dovuto mettere in conto fin dal principio le conseguenze delle mie azioni. Dite a tutti che Marco Polo ha capito e chiede perdono. È vero, signor procuratore. Abbiamo tardato ad eseguire l'ordine di smettere di interloquire con il dolente, che le guardie ne sentivano né vedevano, ma non abbiamo posto resistenza alcuna. Infine ci hanno portato qui con la forza, ma lo giuriamo, signor procuratore, tutto quello che abbiamo riferito è vero. Questa è l'esatta realtà dei fatti. Diamo resoconto onesto alla presente autorità di quanto occorso. Se ella avrà la bontà di consentire... Noi si tornerebbe a casa dove appunto eravamo diretti, si firma con questo documento e si rincasa svelti, sempre che sua benevolenza lo permetta. Nota della redattrice. Non è noto come si sia risolto il caso dei due attori incorsi nell'avventura, di cui narrano gli atti del giacente fascicolo giudiziario loro intestato, ma prima che un avvocato d'ufficio sbrogliasse la vicenda, i due passarono alcuni giorni di contenzione nella postazione delle guardie municipali in Palazzo Ducale, sospettati di essere sovversivi, se non addirittura gli ispiratori di una prossima rivolta contro l'ordine economico costituito. In attesa di giudizio, fu poi concesso loro di tornarsene sotto protratta vigilanza e con obbligo di firma nelle rispettive residenze. Fine.